Così da domandarmi scusa, ma come te la vivi? Hai problemi, risolvili. Hai desideri, realizzali, ma fallo con precisione. Scegli bene la tua direzione. Le vie sono due, il bene e il male. Devi scegliere e dopo partire. Costruire una storia da raccontare in un futuro dove sei tu il protagonista. Decidere fallimenti o una sola conquista. Pensate da troppo tempo o fate in frista. E se poi aspetti a lungo, fai attenzione, scatta la tempesta dopo l'acquazzone. Quindi percorri il sentiero diffidando chi nega il falso col vero. Perché c'è chi lo fa per questioni di dinero, il loro favore a scopo di lucro. Ci sei dentro, finire con ritrovarti in un buco nero, pieno di ombre appariscenti. Si fidano di altri rimanendo non vedenti, così da trasformarsi in burattini, ubbidendo ai propri ordini come dei bambini. Ascolta i pensieri della mamma, coglione, svegliati, non sei Annanna, reagisci. Non finire intrappolato in catene. Tu non cadrai più. Tu vedrai sempre su. Tu penserai al tempo che fu. Tu non andrai mai giù. Se non vuoi cadere, la via è sempre libera. Sarebbe bello dire una volta c'era, ma questa non è una fiaba, è solamente una storia della strada malata, preda di scenari orrendi. Ci sono vincenti, ma molti restano perdenti. Non trovano la forza per uscirne, correndo in quella tana come un verme. Sono forti, no, sono privi di coraggio. Ci finiscono incastrati dal primo assaggio, così da chiedere aiuto, ma nessuno ti sente. Sei rimasto solo, deficiente, e perso contatti, famiglia, affetti, cacciandoti via perché tu non la smetti. Come si dice, le persone cambiano, ma una volta cambiate è così che rimangono. Il passato col presente difficilmente si invertono. Tornare indietro a piacimento sarebbe buono. Il mondo si trasformerebbe in un grande giro tondo. Gira gira, ma alla fine cadrebbe a fondo, come l'ancora che serve per fermare. Prendo l'orologio perché ora il tempo voglio fermare, bloccare animali, cose, persone, ed ognuno di loro capire la propria situazione. Tipo trovarsi in una grande stazione piena di gente che va e che viene, formano un insieme, ma non è detto che tutti si vogliono bene. Siamo diversi, vicini ma dispersi, spenti sotto luci fluorescenti. È brutto dire la realtà come sta, ma sotto sotto sono varie le opportunità. Tu non cadrai più. Sempre su. Tu penserai al tempo che fu. Tu non andrai mai giù. Cerco di esporre la mia opinione, ma non credo di esserne capace. Meglio morire adesso qui. RIP, riposa in pace.